Allora, il pube femminile, con particolare riguardo alla peluria che di solito lo ricopre, non ha mai avuto molta fortuna con l'arte. Una delle convenzioni più ferree della scultura classica era quella per cui alle figure maschili era lecito ostentare tutto il ben di Dio di cui disponevano, con i suoi bravi ricciolini al posto giusto, anche se renderli sul marmo a colpi di scalpello doveva essere una fatica da bestie. Mentre le donne, e anche le dee, hanno dovuto aspettare l'ellenismo per poter essere rappresentate al naturale, e anche allora solo dalla vita in su. Quel limite, come noto, sarebbe stato spostato al collo nel Medioevo e per ambo i sessi, e non avrebbe conosciuto una vera liberalizzazione, neanche con il Rinascimento. Un'età in cui non si disdegnava la rappresentazione del corpo umano, ma si aveva cura di celarne quella parte dietro a prove di cespugli fronzuti, casuali sporgenze rocciose, ramoscelli fioriti vagabondi, o al limite mediante la pudica interposizione della mano della titolare. È un espediente già utilizzato da Sandro Botticelli nel 1486 per la nascita di Venere, è destinato a resistere, per quel che ne so io, almeno fino all'Olimpiade del Manet, che è del 1866, 400 anni dopo. E se nello stesso anno Gustave Courbet si azzardò a violare il tabù dipingendo l'Origine du Monde, in cui l'organo in questione figura in primo piano in taglia doppia XL, è noto che viene derivavano tanti di quei guai da far passare a chiunque l'idea di riprovarci. E furono le avanguardie artistiche del primo Novecento a eludere il divieto una volta per tutte, nell'ambito del generale scardinamento dei canoni del realismo figurativo, e anche allora l'opera di un Modigliani, che nei suoi nudi era piuttosto particolareggiato, suscitò ricusazioni, denunce in tribunale, persecuzione giudiziaria e polemiche che non si finiva più. D'altronde, da provocatore nato qual era, probabilmente le aveva previste e persino sollecitate. E questo d'altronde è il mestiere degli artisti, almeno da un paio di secoli a questa parte. Allargano a forza di provocazioni le tematiche e le possibilità espressive, contribuendo per quanto compete loro a liberare i loro simili dai pregiudizi e dalle tentazioni censorie, che sono cose che bene non fanno mai. Poi naturalmente si può e si deve discutere, nel senso che le provocazioni dopo un po' cessano di essere tali e alla lotta contro il bigottismo finisce sempre per intrecciarsi una certa tendenza alla mercificazione del corpo, per cui delle immagini legate alla sessualità ci si serve anche per avvalorare non poche transazioni disdicevoli. Ma chi non risica non rosica, della moralità di una volta non c'è motivo di aver nostalgia. L'evoluzione del costume comporta dei rischi, ma la sua pietrificazione è più pericolosa. E comunque è poco ma sicuro che oggi non c'è madre di famiglia, né forse madre badessa, che potendo non appenderebbe in salotto o in refettorio un nudo di Modigliani, e che Courbet, se riproponesse quella celebre opera, susciterebbe più sbadigli che proteste. Tranne naturalmente che tra i consiglieri comunali della nostra città. E quelli, grazie a Dio, si scandalizzano ancora. Avete letto, no? Basta che una qualsiasi associazione culturale arte da mangiare, qualsiasi cosa sia, proponga nell'ambito delle iniziative per l'esposizione internazionale di arte contemporanea l'installazione nel verde del parco di una scultura in vetroresina e tondino di ferro che al pelo pubblico della donna appunto si ispira, opera, leggo, di Silla Ferradini, un artista che non conosco ma con cui simpatizzo a priori, se non altro perché portare quel nome deve essere una bella croce, e basta tutto questo che si scatena il più prevedibile dei bailamme. Come se qualcuno avesse davvero paura che cominciando così poi si finisca con l'abbattere la colonna Vendôme. Perché dire prevedibile in realtà è un eufemismo. Il copione è tanto sperimentato da spingere al suicidio per noia, e c'è chi propone di ritirare il pubblico patrocinio all'intera manifestazione, e chi si accontenterebbe di eliminare quel singolo oggetto che pure nella sua stilizzazione sembra abbastanza innocuo, e chi assicura che Milano merita di meglio, come se la giunta Albertini finora avesse dotato la città di chissà quali insigni capolavori, e chi scopre che questa, ma guarda un po' che questa non è arte. e chi come la Tiziana Maiolo, che finora transumanze politiche a parte avevo considerato una donna intelligente, si sente offesa a nome di tutto il genere femminile. I più accorti, fingendo di non cogliere il senso della questione, ribattono che dall'unica fotografia che circola non si può capir bene e si riservano un più meditato giudizio a opera esposta. I più colti citano questo o quel precedente, come peraltro ho fatto io, e un'intervista, bene o male, ci scappa per tutti. Ora, naturalmente ciascuno si diverte come crede. C'è chi gli piace giocare al dottore e chi ai soldatini. Ma perché, in nome del cielo, perché ci si debba dilettare con delle polemiche così stantie, con un gioco delle parti così ferreamente datato, non è facilissimo da capire. È come se nella consapevolezza della propria ignoranza e della miseria culturale in cui la città si è ridotta, la classe dirigente milanese abbia deciso di fare un tentativo disperato di autonobilitazione, mimando la vecchia ma sperimentata querelle del borghese indignato e dell'artista provocatore. E così devono aver pensato: non si corrono rischi, non si fa del male a nessuno, ed entrambe le parti in causa ne traggono un certo vantaggio. Ora, il gioco può sembrare un innocuo, anche se un pochino futile, ma forse non lo è del tutto, perché nel frattempo tutto in giro sta andando in malora, e non soltanto dal punto di vista artistico, e forse tutti costoro farebbero meglio a smettere di giocare, a cercare di impegnarsi davvero con i problemi di cui dovrebbero occuparsi. Anche se sarebbe troppo sperare che certa gente se ne renda conto, tra la banalità del dibattito intellettuale e la crisi sociale e economica esiste un rapporto piuttosto stretto, e con un ceto politico i cui membri sono capaci di sostenere in pubblico che che il crollo dei consumi di pane e di latte a Milano dipende dal fatto che sono sempre più i milanesi che fanno la dieta, con un ceto dirigente di questo genere capite anche voi che il livello culturale non è propriamente ad alto livello. Milano merita effettivamente di meglio, ma non nel senso che dicono loro.